Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, chiaramente c'è ancora una coda dopo l'importante decisione, al di là del giudizio che uno può dare sugli effetti di questa decisione presa ieri dalla Banca Centrale Europea guida Mario Draghi, e quindi l'acquisto a partire da marzo per almeno 60 miliardi di euro al mese di titoli di Stato dei paesi dell'area euro in proporzione al loro peso, ma con la novità che l'80%, la novità è soprattutto nella proporzione, già era circolata l'ipotesi che una parte potesse ricadere in capo alle singole banche centrali, la novità è comunque la proporzione, l'80%, quindi la stragrande maggioranza di questi acquisti e quindi anche dei rischi su questi acquisti, sarà in capo alle singole banche centrali. E questo porta alcuni economisti a dire comunque il bicchiere è mezzo pieno, perché esistiva una possibilità di sviluppare nuove risorse, di aiutare una crescita del PIL dello 0,4% per l'area. Altri economisti invece dicono, beh, insomma è molto annacquata avere dovuto ottenere la concessione tedesca, ha obbligato Draghi ad annacquare l'intera misura, e il fatto che l'80% ricada sulle singole banche centrali dei singoli paesi fa sì che in caso di poi un'eventuale tensione sui mercati, tensione sullo spread, quindi sui titoli di Stato, ci sia un problema di capitalizzazione delle banche stesse e quindi un problema di debito dello Stato a cui queste banche centrali fanno capo. Nel caso specifico dell'Italia è ovvio che, come si diceva già ieri, finché la situazione resta così tranquilla, lo spread in calo vicino ai 100 punti, tassi di interesse previsti in calo sui rendimenti dei titoli di Stato, non c'è nessun problema. Il punto è che se un domani dovesse ripartire, per qualche motivo, che si chiami Grecia o che si chiami qualcos'altro, un attacco alla tenuta dell'euro e quindi un aumento degli spread e dei rendimenti, quindi dei titoli di Stato, e le perdite andrebbero in capo alla Banca d'Italia, che quindi vedrebbe aumentare il suo debito e conseguentemente il debito dell'intero paese. Questo è il limite più forte, ma devo dire non è bastato un quantitative easing così annacquato nella sua componente, insomma chi si fa carico dei rischi, non è bastato al mitico Hans Weidmann, che fa sembrare, Weidmann è il presidente della banca centrale tedesca, Bundesbank, lui ogni tanto però pensa di essere il presidente della BCE. Ora mi rendo conto che la sede a Francoforte, il peso della Germania e questa idea un po', insomma, possano trarre in inganno, ma lui resta il presidente di una delle banche centrali, per quanto la più importante, assieme alla Banca di Francia, alla Banca d'Italia, ma dell'area euro, è una delle più importanti dell'intera Europa assieme alla Banca d'Inghilterra, però è il presidente di una banca centrale nazionale e quindi non si arrende all'idea, dice attenzione, il programma di acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea è uno strumento che comporta dei rischi. A Weidmann, ma che volevamo, uno strumento per aiutare senza rischi? Se lei ne ha uno in mente ce lo dica. Tra l'altro dovrebbe aggiungere, però grazie alla nostra pressione l'80% dei rischi se li caricano i singoli paesi e non con, appunto, per permettere di non irritare l'opinione pubblica tedesca, di non dare l'impressione che questi rischi vengano spalmati su tutti i cittadini dell'area euro. E poi dice c'è il timore che in questo modo Italia e Francia annacquino le loro riforme. Guardi, stia sereno, nel senso che per quello che riguarda l'Italia gli effetti sull'economia, l'abbiamo spiegato più volte, in assenza di riforme della giustizia civile, della burocrazia, dei costi della pubblica amministrazione, gli effetti sono bassi. Cioè Draghi ha creato un buon terreno di gioco, ma non può far giocare al posto dei giocatori, per cui i giocatori e gli attori sono altri. Detto questo, oggi si segnala anche questa piena sintonia, adesso tralasciamo le battute, ma insomma questa piena sintonia tra Angela Merkel e Matteo Renzi, quindi tra la cancelliera tedesca e il nostro Presidente del Consiglio a Firenze. Avremo tutta la seconda parte del programma dedicata a questo, non entriamo nel metodo delle decisioni, ha detto Angela Merkel riferendosi a Mario Draghi. Mentre il premier, per inciso François Hollande, in netto recupero sui sondaggi dopo l'attentato Charlie Hebdo, ha detto molto bene quanto ha fatto Draghi, ci obbliga a un maggiore audacia nelle riforme, è una decisione in attesa che avrà effetti di lungo periodo. Dicevo, questo per quello che riguarda le reazioni. Anche il presidente Matteo Renzi ha detto bene la Banca Centrale Europea, ma guai a pensare che una sola misura cambi l'Unione Europea, un passo in avanti importante ma non decisivo. Dicevo, mentre si è verificata una piena sintonia con Angela Merkel su molti temi, c'è stata un po' di confusione generata dalla traduttrice, non si capisce, dalle agenzie, sul fatto che la Merkel avesse detto ho trovato imprese pronte ad assumere. È un po' diversa la frase, ci arriveremo nella seconda ora del programma. Ci occuperemo invece, come sempre facciamo da mesi, dei settori produttivi di questo paese, quindi trattiamo sia la cronaca economica, finanziaria, di macroeconomia, di politica economica, ma anche poi settori produttivi. Oggi è la volta del settore orafo, gioielleria e argento, ha aperto oggi battenti la Fiera di Vicenza, Vicenza Oro, che è la più importante manifestazione mondiale del settore, con importanti annunci, un settore che va benissimo e continua ad andare bene nonostante il prezzo del petrolio, visto che esporta molto nei paesi arabi. Poi, come sempre, la borsa, e vi do subito un aggiornamento poco prima della chiusura, Milano è negativa di 1,020, mentre Parigi più 1,50, Francoforte più 1,80, Londra più 0,30%. Direte, che cosa è successo? Beh, è successo sostanzialmente che un po' l'America ha contribuito, ma ha contribuito solo su Milano. Perché? Perché oggi si sono vendute a man bassa le banche. Intanto Asso Popolari, che è l'associazione che riunisce le banche popolari, ha detto, come era prevedibile, che darà battaglia sulla riforma e che vuole ottenere un annacquamento degli effetti in Parlamento. Adesso non la spieghiamo, ma vorrebbe arrivare al mantenimento del voto capitario sul Consiglio di Sorveglianza, cioè reintrodurre dalla finestra quello che il governo cerca di levare, e va bene, minacciose le banche popolari comunque, e questo da un lato diventa anche una scusa per vendere, nel caso specifico il Banco Popolare meno 5%, Popolare Emilia Romagna meno 4%, Saipem meno 3,80%, Ubibanca meno 3,60%, e la Pop Milano meno 2%, poi cede parecchio il Monte dei Paschi meno 5,50%, e anche tra le non popolari Unicredit perde il 2,5%. Più contenuto il calo, decisamente più contenuto il calo di Intesa San Paolo, meno 0,15. Bene, invece oggi tutto il lusso, Tod's più 6,70, Ferragamo più 4,80, bene Fiat, Chrysler più 4%, citando il lusso anche Moncler guadagna il 3,70% e Luxottica il 2,26%. Mettiamo dentro, non è col lusso ma è più coi consumi, anche però un titolo come eccolo qua, Prismian più 2,15% e Autogrill più 3,20%, bene Gtech più 2,60%, Telecom Italia si diceva più 3,60%, c'è un po' di così, ci sono un po' di voci su possibili acquisizioni e fusioni. Portugal Telecom ha dato via libera alla vendita degli asset portoghesi ai francesi. Hutchison e Telefonica stanno avviando una trattativa, insomma il settore si muove. Euro su dollaro sempre più basso, l'effetto Draghi si è visto subito sull'euro, a quota 1,1262 in questo momento nei confronti del dollaro. Ultima cifra 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. E allora partiamo subito dalla frase pronunciata oggi dal premier Matteo Renzi, quella che anticipavo, il suo giudizio sulla mossa di ieri della Banca Centrale Europea non è decisiva, mossa importante ma non decisiva. Le decisioni di ieri sono un passo in avanti. Sono un passo in avanti importante, ma non decisivo. Guai a pensare che per uscire dalla situazione di

Ma insomma, gira e rigira. Il titolo può essere questo: tutti contenti che Draghi e la BCE abbiano preso questa iniziativa di acquistare titoli di Stato. Quindi formalmente il quantitative easing. Tutti un po' delusi, o perlomeno è chiaro a tutti. Ecco perché io dico che uno come Weidmann potrebbe anche star zitto, non si deve mai stravincere. Tutti un po' delusi dal fatto che, insomma, a partire dai governatori delle banche centrali dei paesi più in difficoltà, che insomma questa mossa farà sì che poi quasi tutto il rischio si carichi sulla singola banca centrale. E da questo arriva il limite maggiore della mossa di Draghi, che pure complessivamente è una mossa molto coraggiosa, una mossa attesa, una mossa che sta abbassando il livello dell'euro, che a noi ci fa solo che comodo, tutto quello che volete. Ecco, si è dovuta mettere assieme l'esigenza, diciamo, di un quantitative easing con le resistenze fortissime della Germania. Fine. Poi alcuni si spingono a dire che questa mossa rischia di aumentare il rischio paese. Allora, non in questa situazione, però è chiaro che un paese in cui la banca centrale fosse piena di titoli di Stato sotto attacco, beh, insomma, sì. La domanda in realtà è quella che ci facevamo ieri, che si facevano ieri i nostri ospiti: il mercato potrebbe ragionare a quel punto, di fronte a veramente un attacco al debito di un paese, beh, il mercato potrebbe dire: ma perché, se non si ricarica la banca centrale europea, dobbiamo caricarceli noi? Questo poi è il messaggio di fondo. La Grecia la affronteremo più avanti. Oggi il leader di Syriza, e quindi mi riferisco a Tsipras, quello che i sondaggi vedono come il probabile, seppur parziale, vincitore delle elezioni che si tengono domenica in Grecia, ha detto: la Grecia deve continuare a far parte della storia europea. Ha detto Angela Merkel, ha detto: la Grecia deve continuare a far parte della storia europea. Ma Tsipras ha affermato poco fa: io incontrerò i partner europei e non Angela Merkel. Lei è solo una dei 28 presidenti del Consiglio europeo. E poi ha aggiunto: se vincerò, non intendo onorare gli impegni sottoscritti dal precedente governo. Ne parleremo più avanti. Faccio notare che il ministro dell'economia tedesca Wolfgang Schäuble, oggi parlando da Davos, ha detto: attenzione, la Grecia è fuori dal piano di Draghi se non rispetta il programma. Sì, ho capito, però forse la Grecia le può anche convenire non comprarsi, che la sua banca centrale non si carichi dell'80% dell'acquisto di titoli di Stato. Beh. Oh, il piccolo giallo sulla dichiarazione della Merkel, piccolo, piccolissimo, infatti lo trattiamo brevemente. Allora, c'è una frase di Angela Merkel che dice oggi in conferenza stampa: il piano di riforme avviato da Matteo Renzi è molto ambizioso, ma sono sicura che verrà portato avanti e che darà ottimi risultati. Poi avrebbe aggiunto: mi tranquillizza molto quello che avviene in Italia, ci sono riforme, si fanno passi importanti anche a livello psicologico. Gli imprenditori tedeschi che ho incontrato stamane mi hanno detto che ora possono assumere, che non hanno più paura di costi incalcolabili, che possono agire in maniera più chiara. E quindi le agenzie hanno titolato: la Merkel che dice a Firenze gli imprenditori tedeschi vogliono assumere, adesso possono assumere in Italia. In realtà, riascoltando la traduttrice traduceva a braccio, per cui chiaramente è in tempo reale, riascoltando la dichiarazione di Angela Merkel, la frase esatta dovrebbe essere: ho trovato degli imprenditori tedeschi ottimisti sul processo di riforme in Italia, determinati nel sostenerlo, vedono dei primi impulsi, anche perché non sono gli stati a creare nuovi posti di lavoro ma le imprese. Quindi non avrebbe mai detto la frase: ho trovato imprenditori tedeschi disposti ad assumere. Comunque, sentiamola. Mi tranquillizza molto quello che avviene in Italia, perché in Italia ci sono delle riforme, qui si fanno i passi previsti, così si genera fiducia a livello politico. Nessuna banca centrale del mondo potrà sostituire la politica, ma la politica deve assumersi la propria responsabilità, e quello che viene fatto qui a livello di riforme in tutti i settori, ma soprattutto a livello psicologico nel settore dell'occupazione, è molto importante, perché gli imprenditori tedeschi mi hanno detto questa mattina che adesso possono assumere persone, conoscono le condizioni, non hanno paura di assumere costi non calcolabili. Questa determinazione, questa fiducia, io so cosa succede, farà sì che nascano nuovi posti di lavoro. La frase così è un po' diversa e comunque l'abbiamo riascoltata e appunto ha detto ho trovato gli imprenditori tedeschi ottimisti. Detto ciò, poi si è fatta avanti un'impresa tedesca che ha detto no, ma noi siamo pronti ad assumere un nuovo personale. La cito, è la Laika, o meglio, che ha, la Laika produce camper, ha un'azienda a Tavernelle Valdipesa in provincia di Firenze, non ha partecipato all'incontro Merkel-Renzi. Però ha detto che a giugno 2014 hanno inaugurato un nuovo stabilimento a Ponte Rotto di San Casciano, Val di Pesa, 40 milioni di euro, e noi siamo disponibili, siamo una delle imprese tedesche presenti in Italia disponibili ad assumere un nuovo personale. Vabbè, chiusa sta vicenda, abbiamo capito che la frase esatta era un po' diversa. Dopo il metro e la pubblicità ci occupiamo di un caos che sta cercando di gestire il governo, c'è cioè un consiglio dei ministri straordinario, e il tema è l'IMU agricola, cioè l'IMU che devono pagare tutti quelli che hanno scoperto di avere un terreno agricolo in un comune che non è più montano. C'è un caos del TAR del Lazio che veramente non si capisce quasi nulla, ma lo facciamo dopo il metro e la pubblicità. Intanto Milano ha chiuso leggermente in positivo, più 0,13% nel finale. Di nuovo 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, prima di arrivare adesso alle borse, dicevo dell'IMU agricola, che non interessa solo gli agricoltori, ma interessa anche i normali cittadini che hanno avuto la fortuna di ereditare o di acquistare un pezzo di terreno. Cosa è successo? A tre giorni dalla scadenza, che è il 26 gennaio, non si sa ancora, qui il tema non è se sia giusto o no, avere a nostro avviso molti comuni detti montani, di montana avevano molto poco, ma il tema è come sempre la trasparenza, la correttezza, la chiarezza della pubblica amministrazione nei confronti del cittadino. Allora, a tre giorni dalla scadenza del 26 gennaio non si sa ancora se si dovrà pagare l'IMU sui terreni agricoli dei comuni non più considerati montani in base alle nuove classificazioni dell'Istat. Il tesoro in finanziaria, dalla tassa si attende un gettito di circa 350 milioni di euro. Appunto, convocato un consiglio dei ministri per l'incontro tra il ministro dell'economia Padoan e il ministro dell'agricoltura Martina per cercare di sbloccare la situazione. Ma la cosa interessante è perché si è arrivati a questo stallo. Perché ci sono stati un insieme di regole, ricorsi al TAR che hanno prodotto una situazione surreale alla Orwell. Allora, il TAR del Lazio mercoledì non ha confermato la sospensiva sul tributo che lo stesso TAR del Lazio aveva invece pronunciato prima di Natale, quindi si è autosmentito. Dopodiché resta in vigore un'altra sospensiva sempre al TAR, che deve essere ridiscussa il 4 febbraio, ossia dopo la scadenza di pagamento. A quel punto sorgerebbe un obbligo ex post per il contribuente, un quadro inedito perfino a un fisco complicato come quello italiano, per cui il TAR del Lazio non ha mercoledì confermato la sospensiva sul tributo che aveva lo stesso TAR del Lazio pronunciato prima di Natale, resta però in vigore un'altra sospensiva sempre del TAR del Lazio che deve essere discussa il 4 febbraio, ossia dopo la scadenza del pagamento. Tarapia tapioco, brematurata la supercazzola o scherziamo? No, io, scusi, noi siamo in quattro, come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribacco per Fadina, come antifurto per esempio. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Posterdati per due, anche un pochino Antani, prefetture. Senza contare che la supercazzola brematurata ha perso i contatti col tarapia tapioco. No. Vabbè, adesso noi la buttiamo un po' a ridere, ma vi rendete conto della confusione, oltre che incertezza, in cui ci sono messe migliaia di persone, agricoltori, ripeto, ma non solo, che non sanno che cosa devono fare il 26 gennaio. Vabbè, allora andiamo, come avevo annunciato, invece sui settori. Continua il nostro viaggio, che è iniziato mesi e mesi fa, sui vari settori produttivi di questo paese. Oggi è la volta dell'oro. L'oro, perché oggi l'oro, meglio il settore orafo argentiero gioielliero, perché oggi, perché ha aperto i battenti come ogni anno alla Fiera di Vicenza, Vicenza Oro January, che è la manifestazione più importante a livello mondiale per il settore dell'oreficeria e gioielleria italiano, e quindi a livello appunto mondiale siamo onestamente i primi in molte posizioni. Ci sono 1500 marchi, quindi aziende provenienti da 30 paesi e i vari buyers, che anche questi vengono da diversi paesi nel mondo. L'oro e il settore orafo e della gioielleria italiano non solo è uno dei più importanti al mondo, ma rappresenta anche uno dei pilastri del manifatturiero moda made in Italy. Sono 9.000 imprese, pur con le contrazioni degli ultimi anni, 32.000 addetti alla produzione e 50.000 al commercio. E il comparto è al sesto posto come saldo commerciale attivo, quindi la differenza tra quanto un comparto, un settore esporta e quanto viene importato, è preceduto solo da carburanti combustibili, da parti e accessori per auto, dalle macchine per la lavorazione delle plastiche, gomma e altri materiali, e dal settore rubinetteria ed elettrodomestici. Complessivamente i dati diffusi anche oggi da Vicenza parlano di un fatturato a 6 miliardi e 600 milioni di euro, con un export che è al 90%, cioè sono 6 miliardi di euro, un saldo commerciale positivo complessivamente dato del settore di 4 miliardi e 100 milioni, però con qualche timore, nel senso che da un lato il mercato russo si è fermato ed era un mercato di sbocco importante, ma dall'altro ci sono dei timori, o potrebbero esserci dei timori, sul fronte dei paesi produttori di petrolio, paesi OPEC, soprattutto per quello che riguarda la penisola araba. Anche perché nel 2013 gli Emirati Arabi Uniti diventarono la prima e sono diventati la prima destinazione dell'export italiano di gioielleria, 1 miliardo e 600 milioni l'ultimo dato che abbiamo a disposizione, una quota di mercato intorno al 20%, ma dal 2012 l'incremento è stato di oltre il 30%. E poi c'è anche tutta l'attività di Vicenza Oro, che è diventato un marchio vero e proprio da esportare in altre manifestazioni fieristiche a livello mondiale. Ne parliamo con il presidente della Fiera di Vicenza, Matteo Marzotto. Buonasera. Buonasera. Allora, dottor Marzotto, citavo i dati tutti positivi del settore. Nella prima giornata di lavori di Vicenza Oro, lei ha raccolto preoccupazioni sul fronte russo e anche o soprattutto sul fronte paesi OPEC, in primo luogo penisola araba? Le preoccupazioni sulla Russia ce l'abbiamo un po', perché era inaspettabile questa escalation della crisi, e sono tradizionalmente dei clienti importanti, un'area importante. Mentre per quanto riguarda la nostra presenza nella penisola, diciamo, del Golfo, io direi che siamo abbastanza tranquilli, nel senso che Dubai è un crocevia, innanzitutto è una porta di entrata o di uscita tra due continenti, e c'è tanta gente che viene per leisure, quindi per vacanza, per comprare bene, per vivere bene alcuni giorni, quindi crediamo che anche un po' i locali siano così quella fascia di clientela che non è direttamente toccata dall'andamento del petrolio, che invece credo che sia una grossa opportunità in questa congiuntura, anche alla luce di quello che ha fatto ieri Banca Centrale Europea, una grossa opportunità per l'Italia e quindi per le nostre imprese in produzione. Ecco, è vero che il prezzo del petrolio in calo e diminuisce la ricchezza di mercati importantissimi per il settore orafo e della gioielleria italiana. È anche vero però che l'euro ha perso un 15% e probabilmente continuerà a indebolirsi dopo quello che ha deciso ieri la Banca Centrale Europea. Voi vi attendete che, insomma, possano essere a questo punto più i vantaggi di un euro debole, quindi di un vantaggio competitivo sul prezzo delle vostre esportazioni? L'andamento del settore nel mondo non è stato equivalente a quello italiano, nel senso che il totale del settore ha un po' contratto negli ultimi due anni, l'Italia invece, la produzione italiana è cresciuta con un saldo positivo, quindi credo che ci sia questa lunga crisi abbia ovviamente, come dire, sfondato e così è aumentato la qualità del prodotto italiano, e questa è una buona notizia in uno scenario che, nonostante il progressivo abbassamento del costo dell'oro, della materia prima, aveva visto effettivamente una contrazione. Quindi, ma io sarei abbastanza ottimista sul miglior prodotto italiano, che è quello che poi noi proponiamo qui a Vicenza e portiamo in giro per il mondo. E quindi sì, può essere un aiuto dall'euro, ma è soprattutto la qualità del prodotto, se ho ben capito, che rappresenta il vero punto di forza, il vero driver. Beh, insomma, il fatto che le aziende investano in creatività, in qualità, in forza distributiva, eccetera, in servizio, eccetera, eccetera, è senz'altro importante. La moneta è un bel aiuto comunque, quindi credo che proprio questa congiuntura sia molto positiva quest'anno. Ecco, c'è un tema che noi affrontiamo con ogni volta che parliamo di un settore produttivo di questo paese, e li tocchiamo quasi tutti nel corso dell'anno, e significa la necessità per il nostro modello di impresa, fatto anche e soprattutto di piccole e medie imprese, delle volte in filiera, delle volte purtroppo meno in filiera, delle volte in distretto, delle volte in rete, delle volte purtroppo non in rete, non in distretto, però il tema è quello dei mercati distanti, a maggior ragione nel settore orofo e della gioielleria. Allora lì da sempre diciamo, ma a noi non interessa capire qual è il soggetto che può aiutare una forma di aggregazione o di rete, almeno quando si va su questi mercati distanti, grandi e quindi con costi anche molto alti per la singola impresa. Può essere, e lo fanno per carità, possono essere le istituzioni dello Stato, e quindi ICE, SACE, per quello che riguarda la parte assicurativa, abbiamo visto che SACE diventerà anche una banca vera e propria, però possono essere le associazioni di Confindustria, le missioni di sistema, meglio ancora, e un ruolo importante lo possono avere anche le organizzazioni fieristiche quando rappresentano il punto di eccellenza. Ecco, voi cosa state facendo per, non dico solo aiutare l'internazionalizzazione di un settore che se esporta il 90% è già internazionalizzato di suo, ma per presidiare la presenza italiana nei mercati e nelle fiere, negli appuntamenti più importanti a livello mondiale, in modo da mostrare anche la forza dell'intero sistema orafo e della gioielleria italiana? Allora, la premessa che è doverosa è che il sistema fieristico italiano in generale esporta, diciamo, è veicolo di esportazione per circa l'80% del totale. Quindi diciamo l'Italia è portata all'estero fisicamente dal sistema fieristico italiano in larga parte. Detto questo, noi, l'ha detto lei, operiamo in un segmento che ha una vocazione all'export molto forte, essendone il leader italiano di gran lunga sia come dimensione diciamo per le esposizioni che facciamo, sia per l'antica tradizione all'export che abbiamo. Siamo, come dire, un po' anche la piattaforma che deve essere un po' il driver di questa operazione di continua ricerca di mercati di sbocco. Ecco, lo facciamo nel modo più evidente avendo siglato un accordo a Dubai, che non è un accordo ma è una società paritetica con il governo di Dubai per l'organizzazione di un evento che aspira a diventare uno dei 5 eventi più importanti del mondo del settore. Iniziamo il 23 di aprile, quindi la prima edizione sarà il 23 di aprile di quest'anno, un'edizione già con molte centinaia, circa 700 aziende rappresentate, una parte rilevante delle quali sarà italiana. Lo faremo con Panama, dove abbiamo firmato da circa un mese una lettera di intenti che di fatto dà a Vicenza l'esclusiva per le attività che nasceranno intorno al Panama Diamond Exchange, quindi la borsa diamanti di Panama, che è una zona franca, che è in una zona in una piccola ma importante nazione del mondo, che oltre alla quintuplicazione del potenziale del suo canale, tra l'altro a opera di ingegneria e di saper fare italiano, sta creando un vero e proprio boom, una specie di nuovo Dubai verso il Sud America, quindi esserci ed esserci in esclusiva per noi è stato motivo di soddisfazione, di orgoglio e di grande motivazione per il futuro. Lo siamo per esempio negli Stati Uniti, siamo a JCK a Las Vegas portando svariate centinaia di aziende italiane, lo siamo a Mumbai, lo siamo a Hong Kong, quindi la nostra parte la facciamo, ma devo dire la parte rilevante, secondo me più rilevante che faremo è questa collaborazione col Ministero dello Sviluppo Economico, con il Vice Ministro Calenda, con la loro visione che finalmente posso affermare, con l'ICE, finalmente posso affermare una visione di sistema di cui, insomma, che a me fa molto piacere e che non ho mai visto nelle mie varie attività nei decenni. Devo dire che tutti noi riconosciamo a Calenda anche per il suo passato, era l'uomo in Confindustria ai tempi di Montezemolo che si occupava proprio delle missioni di sistema, Cina, India, cito solo le principali. Questo grande pragmatismo, va detto, quando nel governo c'è qualcuno che ha un grande pragmatismo, conoscenza del settore e di quelle che sono le dinamiche e le necessità interne, perché non riconoscerlo? Per cui, insomma, è verissimo, l'abbiamo avuto ospite altre volte, ha una grossa, oltre che sensibilità, anche competenza, che non guasta nella vita. Certo. Su questo. Dunque, in bocca al lupo, a questo punto mi sembra di capire che chiusa Vicenza, che si chiuderà il 28 gennaio, il prossimo appuntamento grosso è dal 23 al 26 aprile a Dubai, appunto dopo il nuovo super show, lo chiamerete, dopo la creazione della società paritetica con il governo di Dubai, e quindi vedremo anche, e ci auguriamo che anche da lì possano arrivare nuove opportunità e sviluppi. Grazie al presidente della Fiera di Vicenza, Matteo Marzotto. Grazie a voi. Nel frattempo manco ci avessero sentito, ovviamente non ascoltavano il programma, ma dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è appena arrivata la notizia che il pagamento dell'IMU agricola, ne abbiamo appena parlato, che teoricamente andava fatto entro 26 gennaio, slitta il termine di pagamento al 10 febbraio. Dunque, non rientrando nei parametri di esenzione, il termine di pagamento è stato posticipato al 10 febbraio e questo lo ha reso noto il Ministero delle Politiche Agricole, ma ha reso noto quanto deciso dal Consiglio dei Ministri in base al decreto legge che rivede i criteri per l'IMU sui terreni agricoli relativa al 2014 con l'applicazione dei criteri di montanità elaborati dall'ISAT, quello che abbiamo già spiegato. Comunque, slitta il termine per il pagamento al prossimo 10 febbraio e adesso traffico. Minuti, adesso la borsa. C'è un ascoltatore che continua a scrivermi: ma come, se a svalutare fosse la nuova lira, per lei sarebbe un disastro, mentre se svaluta l'euro è una cosa buona. Barisoni, un po' di onestà intellettuale. Guardi, è molto semplice. E non è la stessa cosa. Intanto l'euro era un livello di 1,40 sul dollaro, ingiustificato se non dalla politica americana di quantitative easing, di stampaggio di dollari, perché non è che l'economia dell'area euro valga il 40% in più come forza di quella americana, a maggior ragione con gli ultimi dati dell'America in questi mesi. E quindi non è una svalutazione, se vogliamo essere corretti e onesti intellettualmente, è un riposizionamento su livelli più corretti, cioè 1,1 sul dollaro, ci siamo, no? Era, diciamo, patologico l'euro 1,40, non è svalutato l'euro 1,12. Primo aspetto. Secondo aspetto, non posso fare la puntata su questo, ma si capisce abbastanza facilmente la differenza tra il fatto che svaluti, che si rafforzi il dollaro, per meglio dire, quindi l'euro più debole offre un vantaggio alle nostre esportazioni, e una lira, visto che tanto lei ci tiene alla lira, che sarebbe svalutata, questo sì, non solo nei confronti dell'extra UE, ma anche nei confronti di Francia, Spagna, Germania e tutti questi paesi. Noi abbiamo ancora più della metà, diciamo, del nostro export che va verso l'area europea, per cui attenzione, saremmo il vaso di coccio su tutte le valute più forti, quindi, e importiamo tantissimo da Germania, Francia. Lei ha in mente cosa capiterebbe alla dinamica dei prezzi, per cui che il dollaro si rafforzi e l'euro torni su livelli più corretti, più realistici, è una cosa buona. che la lira si svaluti generando inflazione importata, erodendo ulteriormente il valore, il potere d'acquisto degli italiani, sarebbe una vera follia. La borsa, allora, oggi in grande spolvero tutto il settore del lusso e in grande vendita tutto il settore delle banche. Ora devo dire una cosa, che c'è un ascoltatore che scrive, ma qui siamo quasi all'aggiotaggio, nel senso che lunedì e martedì, sapendo che il governo avrebbe dovuto varare questo decreto, i titoli delle popolari erano saliti tantissimo, adesso si va a vendere. Sì, allora, l'aggiotaggio no, però l'obiezione a mio avviso è più che corretta, nel senso che queste vendite si giustificano, sì, poi c'è chi scrive perché Asso Popolari ha detto che darà battaglia anche in Parlamento, vabbè, ma non raccontiamoci troppe balle, c'è chi ha comprato bene al lunedì su queste ipotesi e adesso è andato a vendere. Banco Popolare meno 4,70, Ubibanca meno 3,5, Pop Emilia Romagna meno 2,70, Pop Milano meno 2,20. Questo per quello che riguarda il mondo dei popolari. Poi c'è il caso Monte dei Paschi meno 5,31%, cala oggi anche Unicredit meno 2%, Saipem che aveva recuperato sulle ipotesi di un nuovo gasdotto russo, superato il South Stream, oggi perde il 3,70%. Flavia Carletti, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora Flavia, le banche e il Monte dei Paschi in primo luogo. Le banche pagano naturalmente i realizzi, come dicevi te, dei rialzi avuti nei giorni scorsi. C'era stato questi molti acquisti proprio in attesa della decisione del governo, quindi c'è stato più un effetto attesa sulle banche. Una volta che il decreto è uscito, probabilmente c'è stato quello che ci si aspettava in qualche modo, delle voci che erano circolate su questa riforma delle popolari. Oggi si è andati a vendere anche alla luce del forte rialzo che c'era stato ieri a Milano, superiore a quello delle altre borse europee, proprio trainato dalle banche che avevano avuto una performance migliore del settore a livello europeo. Poi appunto, come dicevi tu, per le popolari ci può essere stato anche questo effetto dell'annuncio di Asso Popolari, che ha detto che è contraria alla riforma e che quindi alcuni analisti hanno iniziato a esprimere perplessità sul fatto che il decreto poi, una volta magari in fase di conversione in Parlamento, possa mantenere gli stessi effetti, e quindi hanno paura che possa esserci un effetto annacquamento. Sì, tra l'altro a questo proposito mi riferisco a Quantitative Easing. Poco fa è arrivata una nota che giustamente ricorda come il trattato della Banca Centrale Europea stabilisca che gli eventuali guadagni dall'acquisto di titoli di Stato, perché ci si può perdere ma ci si può anche guadagnare, i guadagni realizzati dalla Banca Centrale Europea verranno girati alle singole banche centrali nazionali. Poi una fonte bancaria dice: in questo quadro un quarto dei guadagni complessivi andrà alla Germania, quindi di cosa si lamenta Weidmann? Comunque, Flavia, resta con noi, ci risentiamo dopo il GR24. È un mondo difficile e vita intensa. 18 e 8 minuti, riprende Focus Economia. Abbiamo messo questo stacchetto perché ogni volta che si osa dire che l'uscita dall'euro per ritorno alla lira è una cavolata pazzesca, vieni insultato, diciamo, da decine e decine di messaggi. Allora, a parte il fatto che ci dice, uno scrive, ma perché non invita qualcuno che non la pensa come lei? Guardi, sul tema delle banche popolari ho avuto un sindacalista, il capo dei sindacati dei bancari, che non la pensava come me, un economista che non la pensava come me, un altro economista che non la pensava come me, ero in netta minoranza. Ma al di là di questo, qui esce tutta tutte le viscere di questo paese quando tocchi il tema lira. Allora, come se, diciamo, tornare alla lira fosse la panacea di tutti i mali, senza mai spiegare cosa capiterebbe al nostro debito pubblico a quel punto in lire, ai tassi di interesse, allo spread, ai tutti i cittadini che hanno un mutuo a tasso variabile, all'inflazione importata su ogni bene, non solo sul petrolio, anche sulla macchina tedesca, tutto, non c'è problema. Senza spiegare perché perfino la Grecia, che è messa in ginocchio, non vuole tornare alla dracma. Sono tutti pazzi, hanno solo ragione sti geni incompresi che vogliono tornare alla lira, come se il ritorno alla lira fosse il vero problema e non i costi della nostra pubblica amministrazione, i costi e l'incongruità e la follia della nostra burocrazia per le imprese, i tempi e l'inefficienza della nostra giustizia civile, la corruzione che non ha eguali in Europa, la pressione fiscale ma anche l'evasione fiscale che non ha eguali in Europa. Questi non sono problemi, l'unico problema è tornare alla lira. Ma dove possiamo fare? E non facciamo, perché in buona sostanza purtroppo non è la natura, ma l'uomo. Dov'è? È nella tezza, è più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo. È traffico, troppe macchine, è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere e ci vanno nemici, famiglia contro famiglia. Possiamo dire che la soluzione della lira per la ripresa della nostra economia, o la lira sta alla ripresa della nostra economia come il traffico sta ai problemi di Palermo, per utilizzare Johnny Stecchino. Poi c'è anche chi dice che il problema è il traffico, va bene, il traffico, come no? Tutto il resto sono quisquiglie. Infatti noi riusciamo a esportare benissimo, il problema sono i consumi interni. No, ma la lira, torniamo alla lira, svalutiamo, dai, facciamo concorrenza alla Cina e al Vietnam, questo è il futuro che vogliamo regalare al paese. Va, basta. Allora, Flavia Carletti di Radio Coro, stavamo continuando sui titoli, al di là delle banche, delle scuse, dei pretesti per vendere, anche su Saipem, molto bene il lusso oggi, Tod's più 6,70, Ferragamo più 5,12, e poi ancora Moncler più 4 e Luxottica più 2,80. Sì, esattamente. Allora, Tod's, diciamo, ha avuto, al di là degli altri titoli del lusso, dei motivi proprio suoi per salire, secondo gli analisti e gli operatori. In particolare sono uscite delle prime stime su quelli che sono i risultati del gruppo. Per il 2014 si calcola un fatturato di quasi 1 miliardo di euro, diciamo in linea con quello dell'anno precedente e poco sopra il consensus. Però il segnale più importante, secondo gli analisti, è arrivato dal fatto che nel quarto trimestre del 2014 c'è stato un aumento dei ricavi del 4,6%, che in qualche modo fa sperare probabilmente anche per il futuro. E in più lo stesso gruppo comunque ha detto che ha dei buoni riscontri su quelle che sono le prevendite della collezione primavera-estate. Mentre invece per quanto riguarda gli altri titoli del lusso, in particolare Salvatore Ferragamo e Moncler, sono stati tra quei titoli ciclici inseriti da un report di Equita che indicava quelli che secondo loro sono i titoli che potrebbero avvantaggiarsi di più dal quantitative easing e il conseguente indebolimento dell'euro nei confronti del dollaro. Esatto, che adesso è a quota 1,12,70. Migliori e peggiori in assoluto oggi a Piazza Affari. Anzi, prima ti faccio commentare Telecom Italia, perché qui più che Telecom Italia, che guadagna 4,60, si è mosso molto il settore. Sì, esattamente. Telecom Italia ha beneficiato di quello che è stato l'andamento in Europa di altri titoli, in particolare di Portugal Telecom, che alla Borsa di Lisbona oggi ha fatto più 11% dopo aver fatto già quasi più 24% nella seduta di ieri, perché gli azionisti della società spagnola hanno dato il via libera alla vendita ad Altice, che è il gruppo francese che controlla l'operatore telefonico SFR, degli asset portoghesi del gruppo brasiliano Oi, di cui Portugal Telecom ha una quota del 39,7%. L'operazione è stimata a 7,4 miliardi di euro e questo ok viene visto come un passaggio fondamentale per eventualmente riaccendere quelli che sono i discorsi di un'integrazione in Brasile tra Oi e la controllata di Telecom nel paese, che è Team Brasil. Quindi questa, diciamo, operazione potrebbe dare nuovo fermento all'M&A nel settore, a cui si aggiunge proprio nell'ambito M&A la notizia anche che Telefonica ed Hutchison hanno confermato l'avvio di una negoziazione esclusiva per la vendita dell'operatore inglese O2 al gruppo asiatico, e anche qui si parla di una valutazione di 9,2 miliardi di sterline. Quindi, diciamo, gli analisti vedono in tutte queste operazioni una nuova febbre da M&A nel comparto telecomunicazioni, che potrebbe arrivare anche in Italia e contagiare quindi anche delle imprese italiane, al di là dell'operazione in Brasile di Team Brasil. Allora, migliori e peggiori in assoluto per quello che riguarda Piazza Affari oggi si chiamano Premuda più 22,80, TAS più 12,33%, Seat più 9,90, Zucchi più 8% e Tod's appunto più 6,70. Peggiori Leone Film Group meno 7%, Monte dei Paschi abbiamo già detto, Visibilia meno 5% e poi Banco Popolare, abbiamo detto, Rai Way meno 4,60%, grazie a Flavia Carletti e buon fine settimana ai colleghi di Radio Cori sulle 24 ore. Allora, no, ancora su sta lira. Allora, sapete perché mi innervosisce tanto il tema? Non perché non se ne possa discutere, perché rilevo e rivedo in questa tendenza a dire torniamo alla lira e tutti i problemi si risolvono, un vecchio vizio italico e quindi degli italiani, di noi tutti, quello di cercare sempre una scorciatoia, quello di farsi passare i compiti a scuola, di essere bravi in orale e non nello scritto, e cioè l'idea taumaturgica che arriva o il salvatore della patria, o quello che dà il lavoro a tutti, o la liretta che ci risolve tutti i problemi e quindi improvvisamente diventiamo ricchi, non esiste l'inflazione, il debito non schizza, i tassi di interesse non schizzano. Cioè è il solito vizio di una parte del paese, per carità, di trovare una scorciatoia. Non esistono scorciatoie, i compiti si devono fare come si spiega a qualunque figlio, e noi li abbiamo da fare tanti, li ho citati prima. Dobbiamo riformare interi settori dello Stato, dobbiamo essere cittadini migliori. E devo rifare la lista? No, vi prego, dai, è venerdì per tutti. Allora, mi sembra che dietro questi fantomatici teorici della lira ci sia la voglia di molto populista, molto di pancia, di dire c'è una scorciatoia invece di seguire la strada che altri paesi, anche la Germania, in questo senso virtuosa, hanno seguito la strada lunga, più faticosa, ma più seria, di fare le riforme, di diventare più seri, di non cercare le scorciatoie per tutto, per ogni cosa. Però forse sbaglio io, ecco perché abbiamo messo I Have a Dream. Comunque, visto che si parlava della lira, che nemmeno i greci vogliono, oddio, Tsipras non vuole tornare alla dracma. Tsipras ha detto solo che non vuole rispettare gli accordi presi dal precedente governo, che vuole una diversa Europa, e per alcuni versi è anni che diciamo anche noi che ci vuole una diversa Europa, ma un conto è una diversa Europa, un conto è tornare alla lira o butti via il bambino con l'acqua sporca. Dimitri De Loianes, buonasera. Buonasera a voi. Pronto, carico per le elezioni in Grecia, è un giornalista che è stato per anni corrispondente della Grecia dall'Italia. Sentiamo Tsipras poco fa in conferenza stampa dire in sostanza, tra le altre cose, incontrerò i partner europei e non Angela Merkel, lei è solo uno dei 28 presidenti del Consiglio europeo, e poi non intendo onorare gli impegni sottoscritti dal precedente governo. Il partito Syriza vuole la maggioranza assoluta per avere le mani libere e rinegoziare il debito della Grecia. Syriza rispetterà gli obblighi insiti nella partecipazione del suo paese all'Unione Europea, ma non gli impegni presi dai precedenti governi, in quanto non derivanti dai trattati fondanti dell'Unione. Sappiamo di essere a un passo dalla maggioranza assoluta in Parlamento, e questa è una necessità se vogliamo avere le mani libere e un forte potere negoziale. Il mio primo viaggio all'estero non sarà a Berlino, sarà a Cipro. La Merkel non è più speciale degli altri leader dell'Unione Europea. No, sorrido perché c'è uno che è quello sempre che mi dà del leccapiedi, cambi ogni tanto. Dice dei mutui in euro si farebbe carico lo Stato con la lira, ecco, perfetto, no? Cioè, questa è bellissima, no? Però noi esporteremo di più, ma guardi, lei pensi esattamente a quello che ha scritto. Se tornassimo alla lira, i mutui in euro sono a carico dello Stato, e certo, e come no? E il debito mica è un problema in Italia, è noto che in Italia il debito non è un problema. Allora, Dimitri, vince Tsipras e poi che fa? Vince Tsipras, sì. E poi che fa? Allora, una piccola puntualizzazione, ha detto che non vuole parlare solo con la Merkel. Hai ragione, c'è un errore nell'agenzia, altrimenti scoppiava un caso internazionale, dice non voglio parlare solo con la Merkel. Sarebbe assurdo. No, anche perché adesso non si può tenere fuori la Merkel. Non voglio parlare solo con la Merkel, forse era un modo anche per commentare il Renzi di oggi, non lo so. Non voglio parlare solo con la Merkel, ma con tutti i 28 leader. Lei è uno dei 28, in questo è in campagna elettorale. Un elemento di informazione in più, che le trattative ha intenzione di intraprenderle con i governi dei paesi membri, dei partner europei, non con la Troica. Non con la Troica, sì. Come si vede adesso, uno può pensare come vuole, ma Tsipras non ha mai detto né di tornare alla dracma, né che vuole uscire dall'euro, niente. Ha detto semplicemente questo. Resta con noi, Dimitri, perché adesso ci raggiunge in collegamento da Firenze anche il nostro Sergio Nava, che ha seguito tutto il vertice Merkel Renzi, parte delle dichiarazioni le abbiamo già date, poi il giallo è diventato ancora più giallo perché sembra che veramente la Merkel abbia detto che ci sono imprese italiane, imprese tedesche disponibili ad assumere, non si capisce più niente, comunque traffico. Dimitri, rispondimi anche alla domanda: come vincerà Tsipras e poi che farà? Farà quello che dice di voler fare, cioè inizierà un negoziato con i partner europei, con i nostri creditori, per elaborare insieme il problema del debito e una nuova politica di sviluppo per la Grecia, ma anche per gli altri paesi indebitati dell'Europa. Quindi, ma il governo con chi lo fa secondo te? Perché il tema vero è quello? Sì, esatto, è una questione, la situazione è molto fluida perché non si sa in questo momento, i sondaggi greci sono ridicoli, io non do la minima credibilità. Anche quelli italiani non scherzavano negli ultimi anni, però. Sono peggio quelli greci, guarda. Vabbè. Garantisco. E quindi non si sa quali dei partiti minori entreranno poi in Parlamento. Ci sono dei partiti con i quali si può alleare con molta facilità e ci sono dei partiti con i quali sarà più difficile. Allora, resta con noi Dimitri perché, come dicevo, ci ha raggiunto il collegamento Sergio Nava che ha seguito questa mattina a Firenze tutto il vertice Merkel-Renzi. Noi continuiamo a parlare di questione economica. Ha detto Renzi, l'Italia è con la Germania per cambiare la narrativa europea. Un po' vendoliana, ma ascoltiamo. Noi oggi continuiamo a parlare sempre e soltanto di questioni economiche, ma dimentichiamo che c'è un tema nel quale l'Europa ha un grandissimo elemento di forza nel mondo, che è la capacità di ispirazione, di dare valori, di dare ideali. Ce ne siamo resi conto quando tutti insieme, mano nella mano, abbiamo marciato a Parigi dopo il terribile attacco a Charlie Hebdo. Ce ne siamo resi conto quando ci rendiamo conto che l'Europa nel mondo è innanzitutto un'idea e un ideale e come tale va difeso e promosso. E per questi motivi sono davvero convinto con Angela che forse tutti noi insieme dobbiamo cambiare la narrativa dell'Europa. Dobbiamo tornare a entusiasmare i giovani, dobbiamo tornare a appassionare i nostri cittadini, non soltanto con le discussioni di natura economica o burocratica. Abbiamo parlato dettagliatamente dell'agenda di riforma di Matteo Renzi, che Matteo Renzi ha appuntato, ha approntato, e vorrei cogliere questa occasione per dire che è veramente un percorso di riforme molto ambizioso, e stima molto e apprezzo molto il fatto che non si suscita l'impressione che si faccia tutto questo perché ce lo dice Bruxelles o qualche d'un altro, ma perché è positivo per gli italiani, perché crea possibilità di lavoro, perché dà occupazioni, perché dà una speranza ai giovani. Allora, Sergio Nava, vabbè, Angela Matteo, tutto Angela e Matteo, potremmo fare un nuovo libro, però insomma la sintonia mi è sembrata molto forte. Hai risolto questo problema? L'ha detto o no Angela Merkel che ci sono imprese tedesche, a questo punto è un mio cruccio, che stanno assumendo e vogliono assumere dipendenti italiani? Non si capisce niente, prima sembrava che l'avesse detto, poi non l'aveva detto, poi l'ha detto o no? Sì, ciao Sebastiano, allora sì, l'abbiamo risolto questo dubbio, nel senso che Angela Merkel in un primo ha due volte delle imprese tedesche. La prima volta, quando ha riferito della colazione stamattina, ha detto: ho trovato gli imprenditori ottimisti sul processo di riforma in Italia, determinati nel sostenerlo, vedono dei primi impulsi, anche perché non sono gli stati a creare nuovi posti di lavoro ma le imprese. Poi successivamente in un intercalare all'interno di una frase successiva, di un pensiero successivo, ha detto effettivamente ha visto questa interesse per adesso possiamo iniziare il weekend tranquilli. Detto ciò, perché era un cruccio che avevo da inizio del programma, ma non si capiva. Detto questo, hanno, come abbiamo le varie dichiarazioni, abbiamo anche ascoltate, Mi piacerebbe avere da te in un paio di minuti il tenore complessivo dell'incontro, ma anche le preoccupazioni rivolte verso la Grecia. Prego. Allora, diciamo che l'incontro, sicuramente, come dicevi tu Sebastiano, ha fatto registrare una grande sintonia tra i due. La mia impressione personale, vedendo un po' quello come si è sviluppata questi due giorni, è che Angela Merkel sia anche un po' passata, se vogliamo, all'incasso, tra virgolette, perché questa totale insistenza sulle riforme ha nascosto il fatto che la Germania qualcosa, diciamo, ha lasciato agli altri, sia il piano investimenti, lo ha detto lo stesso Renzi, il piano di investimenti Juncker che dovrebbe partire, la comunicazione sulla flessibilità che la Commissione Europea ha fatto, e quindi ora anche per soddisfare la sua politica interna, a dei partiti soprattutto a destra della CDU che stanno avanzando, l'alternativa fino ad oggi su tutte, è passata all'incasso nel senso di farsi dire e farsi ripetere che l'Italia, spesso finita dietro alla lavagna, farà queste riforme, anzi metterà il turbo. Quindi questa unanimità, questo grande consenso tra Italia e Germania sulle riforme... Sì, non ti dico cosa hanno scritto gli ascoltatori sugli italiani che metteranno il turbo, esattamente dove verrà collocato il turbo agli italiani, ma fin dall'inizio del programma che mi stanno massacrando su questo. Dimmi una battuta però, preoccupati, e il giudizio l'abbiamo visto anche su, ha detto la Merkel, Renzi, non vogliamo commentare le decisioni della Banca Centrale Europea, tanto ci ha pensato Schäuble e Weidmann, ma sulla Grecia preoccupati o ancora speranzosi? Molto diplomatici sulla Grecia, nel senso che noi lasciamo ovviamente la libertà agli elettori greci, poi vorremmo chiaramente la Grecia continuasse a far parte della storia europea e quindi anche all'interno dell'Eurozona, però insomma hanno lasciato tutto a lunedì, insomma, come dire, riparliamone lunedì. Dimitri, la vera domanda per te, vincerà Tsipras sì o no? Ma certo che vincerà. Ma perché lo voti tu, non ho capito. No, ma vincerà sicuramente, perché questo era già evidente all'indomani delle elezioni europee. Lui, Syriza avrà sicuramente un aumento rispetto alle elezioni europee. Bisogna vedere di quanto, da questo dipende anche se avrà la maggioranza assoluta in Parlamento o no. Però la sua grande arma è che crollano gli altri. È quello, appunto, sì. E anche l'affluenza. Allora, grazie a Dimitri Draianes, grazie a Sergio Nava, da Sebastiano Barisoni un auguro di buon fine settimana a tutti voi in ascolto, un ringraziamento come sempre anche a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Noi ci risentiamo lunedì con l'esito del voto greco dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.